chiamato io. Gianni! Gianni! Hola! Attenzione, dieci! Tu, chi è? Chi è, chi è? Quanti? SS, buonasera! Lei è Antonio Bombolo! Segnalino, sai? A casa sei? Scappa Ruggero, perché come ti sto arrivando? Ma forse, numero 25 oltre. Ma sei in via Rock o là? Dall'altra, guarda un attimino se è aumentato. Ora. Di poco, ma quasi niente. Bene così, allora dai. Bene, bene, cosa stai facendo? Sono entrato e sto qua. Niente in particolare. Oggi ho lavorato tutto il giorno, adesso ero qua in solitudine. C'era anche la televisione spenta. Ma io Roger, aspetta che accendo la lampadina un attimo. Già. È andato oggi lì, da quello là. Da chi? Quello che stavo cercando, ho indicato giusto. Ma un po' di tutto quello lì, salumeria, fotografia. Che cappa, tranne quello che mi serviva. Ma c'era una moglie, era sposato il tipo, no? Sì, mi sembra che è sposato, ma non so lì alto, un po' alto. Cappa, già ho capito, aspetta un attimo. Sentito? No, ho sentito. Cos'hai visto? No. vero però. Vabbè, ma comunque riesci, diciamo, ad arrivare Ok, buonasera signor Crope, a lei il mic. Ciao Sandri, tutto bene? Ma, diciamo di sì, dai. Quello che è bene, poi il resto metteremo piano piano a posto. Scappa di Ruggero, non lo dire a me, guarda, ho passato 3 o 4 giorni che stavo piazzando, domani devo piazzare altri 4 di quei distributori. Ah, ho capito, quindi ti servono da fare, dai. Scappa di Ruggero, già hai capito quali sono, no? Quelle apparette, i vari prodotti. Sì, ho capito. Va bene. Ma anche quelli, Antu, se ne vuoi, ce ne ho quanti ne vuoi. Ma, se volevo dire a Luca, gli volevo dire che quello lì lo fornisco io, lo fornisco, hai capito? Li porto nel mondo del 62 lì, a puntana di Lucoico. Sì, è tosto, ce l'ho, non l'ho mangiato bene. No, sono sincero, questa faceva schifo, pure i frutti di mare, usavo il caramba io. Infatti le cose quando mangiavo da ricco, la mia apertura era quasi chiusa, o aperta, no? E c'era una puzza, di morto. E te l'hai mangiata? Una l'ho mangiata, non mi sono mangiato le asselle, i granchietti, neanche i cui mi sono mangiato gli altri, come si chiama, no? Non sono granchi, va, hanno dato nome. Per quanto mi riguarda le frutti di mare, non è che mi fanno molto. Ma tu lo sai come la cucinano lì la pasta? Cioè, nei ristoranti come si cucina la pasta? Non la cucinano, buco l'acqua, penso una come la fanno in casa. No, negativo. Siccome ti dovrebbero far aspettare un bel po' di tempo, allora vanno in precottura, cioè prendono una quantità di pasta, la cuociono, tipo se la pasta ha 5 minuti di cottura, loro la prendono il pomeriggio, la mettono a bollire, gli fanno 3 minuti in modo tale che poi la devono, e dopodiché la raffreddano di colpo con dei getti d'aria che la riporta quasi ad essere secca, però già precotta. Quando arrivi tu fai l'ordinazione, loro non fanno altro che prendere questi nidi di pasta che è già precotta, la mettono a bollire e ci vogliono solo 2 minuti per raggiungere la cottura. Poi aprono dei barattoli che sono riscaldati a bagnomaria e ci mettono a colpi di intruderi, a seconda di quello che hai ordinato, prendono il bel coso, lo scaldano e te lo mettono e ti mettono il condimento. Ecco, perché ho fatto in fretta con lui? No, vabbè, è una pasta fresca. È una pasta fresca, tu. Fa da loro, erano delle tagliatelle piccanti, leggermente piccanti. Poi tutto il condimento del, come si chiama? Del, ma, il condimento che mi ha messo, però non mi è piaciuta, non ho saporato, strano, non insipida, non ho mangiato male, sono sincero. Perché molto spesso quando lo scaldano il condimento, lo scaldano tutto, no? Poi lo devono riraffreddare perché magari non l'hanno utilizzato e poi ricordati mai mangiare frutti di mare in spaghetterie come quelle che fanno, no, è normale che non sia fresco, capite, il frutto di mare. Adesso ti mangi i frutti di mare e la diarrea è assicurata, e anzi fortunato che ti venga perché vuol dire che ti stai liberando. Guarda, insomma, non male che, perché questo medico lo sai, a secondo mi capita, io andiamo qua, andiamo là, abbiamo fatto da là, ci siamo rientrati direttamente a casa, di bugia, si mangia a comprare un regalino, lo va a comprare, e poi siamo andati a casa, in tempo, guarda, la cucina non è proprio, vabbè, sono andato a casa, ho fatto il cane, perché era tutto, cioè, tornati a chiuso in casa, l'ho portato fuori e poi molto scoppiato, cioè era più male, guarda, ma non è che ero vicino a casa, perché se male mi sentavo a rientrare a casa, l'ho fritto, perché io, guarda, sono vicino a te, poi negli altri bagni, poco comanda, ma ok, è proprio urgente, ma se no voglio preferisco tornare a casa. Ciao, guarda, guarda, sta lavorando bene, ci sta andando un parecchia gente lì, 140 grammi, in via Troni. Secondo me sta lavorando un bel, sta lavorando, perché ho visto che sono anche molto, puliti, ho visto. Guarda tu, c'erano un po' di gente, non sono arrivati, noi erano le 1:30 circa, e poi sono arrivati gli altri che erano le 2:15. Già era, c'era gente. Ma no, guardi, ma chi è la sorella di Sandrino, la, chi è? No, quella lì è la cosa, è l'ex moglie, siccome si era separata poco prima di morire. La sorella poi ne ha aperto un altro. Se immaginate, il brutto è vedere proprio sulla Nuova Sardegna che c'era la doppia foto, perché uno gliel'ha fatto l'ex moglie e l'altro gliel'ha fatto la famiglia, quindi c'erano due foto della stessa persona. Ma mi è sembrato di sentire un break, mi è sembrato Salvini, è possibile, avanti. È sembrato Massimiliano, avanti. Tutto grosso, poche Paolo, non so, vabbè. C'è una tipa che devo mettere la password del modem, no? Ci facendo i telefonini con il wifi. Ci ha andata, però non riusciva a connetterci perché invece di scrivere bene la una A sembrava una O, infatti non ci faceva connettere. E poi alla fine siamo andati a pagare, questo amico gli fa, guarda, non siamo riusciti a connetterci perché magari forse eravamo troppo distanti, non so, ma c'era la password sbagliata. E ci ha fatto connettere anche il... No, sono stati... Per il resto è stata gentilissima, però io ho mangiato male. Non lo so, poi magari la prossima volta che capita, magari... Non penso, perché la roba non c'era. C'era la password, 35 euro. Da me non ho mangiato malissimo, lui la fa, e lui fa, e ha potuto intanto già salire la macchinetta, perché ha vinto 750 euro la macchinetta, la signora. Cappa di Roger, ma è che cos'è, bassottina con i capelli neri? Sì, già. È l'ex moglie. Domani mattina se vuoi venire ci vado, che gli devo chiedere se posso piazzare due macchine. Riprendi Sandro, come ti sento giù di tono, Sandri, scusa se abbiamo riparlato, avanti. Tu, quando vuoi, c'è il mio numero, se ce l'hai, mi chiami, se hai bisogno non vengo, non c'è problema, Sandro, che io sto a chiamare a te, non so manco quando chiamarti, se hai bisogno mi conosco, io sono sempre disponibile, tanto vuoi, vado giù, tu, c'ho anche attrezzatura se vuoi. No, quello non c'è problema. Attenzione, Sandro. Ehi, capo Antonio, dai. No, sono qui che sto ultimando alcune cosette. Capito, sto ultimando alcune cosette che sono un po' arretrato, quindi sto un attimino terminando. Mi seguo. Ehi, no, ti devo fare una domanda, dopodiché vado anch'io un attimino a fare carica la batteria. Non è che conosci qualche fabbrica in continente che fabbrica, appunto, che produca con, come si dice, scatolette tubolari? Scatolette tubolari? Scatolette tubolari? Ma, spiego un attimino, allora ti faccio un puro esempio. Una classica scatoletta, diciamo, a parte le sue dimensioni in plastica. Cioè, è presente i distributori, quelli che distribuiscono, a me servirebbe in breve un cilindro trasparente della lunghezza di 6 cm per un diametro di 1,5, 2 cm, anche 2,50. E vorrei chiedere a una fabbrica appunto se mi possono produrre. Ho capito. Non lo so, lì bisogna andare un attimino alla ricerca, e ho capito che cosa stai cercando te, ma penso che ci siano, ma lì logicamente sarà il discorso sarà in base, diciamo in base alla quantità, capano dai 5.000 metri in su assolutamente. Dai, riprendi, da un attimino vado a fare una mini carica. Luca, ci sentiamo dopo, pombolo lo stesso. Sandri, riprendi e ci sentiamo dopo se ci sei. Va bene, riprendo io, anche loro, ci sentiamo dopo se ci siete, ciao. mangiare, si mangia le gane. Noi, procione! Mi stavo spazzolando ogni tanto qua, perché siete tutti morti, non c'è più nessuno a questa frequenza. Stavo spazzolando e dicevo se c'è qualche guasto. Come fa a me? Vabbè Luca, brava. Via. Per carità, male, male, ga. E come va? Antonio Mammolo. Sì, buonasera, l'aeromobile siete in litiga. Io già li ascolto sempre, siete sempre in monitor, per me si comportate bene. Gaffa. Uia. E tu sempre in giro vagando per le frequenze, sai? Sì, ogni tanto si accendo. Ma cosa, io ci sono periodo e non vi sentivo più qua, boh, fate toccato da, di nuovo bisticciato, no, questi signori qua, non c'è più nessuno. No, è che, no, quando c'è le cose da fare, purtroppo, io che ti pare un raggio, e attende, quando c'è le cose da fare, purtroppo, va a fare le cose, potete anche abbandonare. Vabbè, boh, però io non sentivo nessuno. Accendevo, spazzolavo, nessuno, boh. E Gianni, non più rumore, non più sentito. Vero che ci ha venduto tutto? Bucca. Via. Ma vero che Gianni ci ha venduto tutto? No, io ho entrato, no, via, non ci vuole niente. Vabbè, e tu, tutto a posto? Benissimo, sempre perfetto. Sì, qua se no per Radio 5 è perfetto, se c'è nessun problema. Sono un baracchino adesso. Quello che hanno venduto. E perché te l'ho venduto? Purtroppo, ho avuto delle spese. È una bella radio quella lì, 140, è bellissimo. Capito? E mo te l'ho venduto. 3. No, sono di Olbia. Sì, la metà del tuo era un bidotto, quanto modificato, tutto toccato. Guarda, la radio era un bombo. Bella radio, le sono tutte belle, buone, quelle lì. Tutte quella serie va benissimo. Capito? Avanti, Antu. No, ma... davano bene, a Buddha. E non avete mai dato. Vabbè, ma se siamo lì, è uno freddo, non è che ormai, così, no, è una bella radio, quella va benissimo, è di lusso, una bella radio. Allora, dici, già va bene, dai, no, io sono un pochettino geloso delle strutture, è difficile che ti dia un baracchino in mano, cioè, a meno che proprio no, cioè, se proprio mi è capitato qualche volta, diciamo, cosa ti dico, però se è roba mia basta, non, è più forte di me. Sicuramente non l'avrebbe dato se non avessi riparato, ma così Luca. Allora, tanto tu parli così che grazie a Dio non hai problemi di entrate, ma se avessi avuto un po' di problemi di entrate non te l'avevo chiuso un baracchino, ma pure a 8. Non è che riesci a farmi cambiare idea così, no, a me. Sono un pochettino sulle mie, capito? È un pochettino difficile altre entrate, pure noi abbiamo avuto dei problemi. Non è che non li abbiamo avuti noi in passato, però abbiamo sempre cercato di tirare l'acqua al mulino un pochettino. Ma vediamo il futuro, se ce ne sarà bisogno. Oh, pulita, sempre spolverata, va benissimo. Vita da primo il tappo, dentro si riempiva di polvere, la polvere era una spolveratina, pulita, va perfetta. Era una signora a radio quella, bella, bella, bella. Poi purtroppo ho avuto quello che ho avuto e mica sono anche una brigata, assolutamente. Avete preferito dare più uno stomacchino piuttosto che dare quella là. Adesso mi rendo conto che con questo malattio qua non mi ricordi, ma ci mette molto altro, non ne prendevo. E vabbè, no, guarda una nuova cucina, se ci siete torno dopo, ciao. Grazie, altro problema. Avanti, fate. Se prima niente, sì, non ti buona dieta. Ripeto, 75 kg, non è tu assai, no? Ma bucia tutto. Tanta buccia, 20 kg. Vabbè, noi siamo qua, cioè, lo sentiamo dopo, va. Avanti, altri personaggi ci sono sotto casa. Ho rientrato, è ben mascherato. Ma è un voce, vabbè, anche un clone. L'altro giorno mi sono amico tuo. Amico mio? No, non ce ne sono amici miei, soprattutto quello che stai pensando tu, non credo. Io la città mercato con la sorella, grazie allucinate. A tu mi amico di clone. Fidanzato. Comunque è amicidiale, tu busci un bello, bello pieno, Adesso quello lì penso sia grande, io penso che abbia 60 anni. Almeno, cioè ne aveva 40, quando io ne avevo 14, quindi... No, forse no, 40 no dai, però sì, una sessantina d'anni ce li ha. Abbiamo piazzato, si vede una persona tranquilla, tutto bello, una persona che sa bene, capito, la sorella, fatto Rolex al polso. La sorella è un bel draccone. Sì, vabbè, anche quella è grande, ma sto dicendo lui, Rolex al polso, capito, ti vestito bene, impeccabile, io ci ho passato la cosa, Falco, sei girato, ma io ho contato la realtà. Ma la famiglia l'ha sempre tenuto bene, devo dire la verità, almeno le poche volte che l'ho visto era sempre impeccabile, come hai detto tu, ben vestito, pure a bacia da manco. Io conosco il nipote, siamo amici da tantissimi anni, almeno 20 anni, e io, cioè lui una volta, c'è neanche sapevo che fossi lui, e un giorno ero in macchina e lui ci guarda, ma tutta, ma chi è quello? No, quello è mio zio, capito, micidiale. E poi dopo un po' di anni io gli ho mai detto che lo conoscevo, è venuto a casa mia a fare uno scontino in campagna e gli ho fatto la stessa radio, si è spaventato, ma tu cazzo la tu conosci, ma tu perché quella di campagna che è tuo zio? No, e lui cosa ti ha detto? Ah, cosa ti ha detto? No, niente, ho fatto un bacchino, lo prendo in giro, ma tu non sei di quello che lo prendo in giro io, non le prendo mai in giro le persone. Perché è così, capito? Infatti lo vogliamo togliere perché si incanta sempre, ma io tanto quando lo sento non lo in giro. Ma poi lui è tranquillissimo, l'importante è passare in gamba veramente. Certo, lui purtroppo è guascio. Bucanito. Era stato usato, ma ha fatto il video. Vabbè, ma comunque poi fuori la benestante, era sempre tutto bene. Io mi ricordo quando lui, perché la sorella c'ha l'azienda di Assorso, proveniente da Assorso, e io in Madaria sono vicino a loro, siamo un paio di chilometri, verso una rizza, e lui aveva sempre il baracchino lì, e quando l'ho minacciato era il baracchino, ma lo faceva una beffa. Tanto c'è quel bastardo che mi splattera sempre, io sono passato 3 chilometri, poi gli puntava addirittura con lineare, non ci parlava mai, poi si incazzava, anche cominciava a fare i nomi, i cognomi, faceva tutti tranne che il mio. Valerio, ma ho capito, tu hai un'antenna, per caso una mantova, sulla sinistra, sulla strada interna. Ma dove? Non è sorso, no? Non sei tu quello che va lì, no, quello lì? No, io sono in periferia, però non proprio sorso, sono verso Marrizza, capito? Io comunque da quando ci sono preso sul paese, per quello sono in campagna. C'erano altre persone accanto a me, anche altri proprietari terrieri. Però io in Italia sono molto vicino, l'ho aperto a lui, quindi l'ho creazzata alla grande, cazzo. Poi rincazzavo e basta. Cazzo, che noti, passiamo pieno, diceva, micidiale. Pagava. Un attimino di quel Rix per me che sto finendo di scrivere una cosa. Ecco, anche scrivere una lettera d'amore. Allora, tu. Adesso forse è il cazzo orto, se no. Sorella. La sorella c'ha una piccola attività, tipo la fanno il marmo, la capito? E c'hanno un laboratorio lì vicino, dove tuttora abita la sorella, una delle sorelle. E lui è stato, andava dalla sorella, la sorella se la portava, no? E aveva anche una gran pain, con due metri di palo. E quindi dove è stato da mio cugino che si lo ammazzavo, cazzo, perché mi facciamo vicino, avevo la sua postazione. Ma guarda, da paura, cazzo. Ma è cosa vecchia o è cosa nuova? O se continua a modulare? No, è tanti anni fa, adesso non c'è più niente. Io ti parlo tra 15 anni fa, 20 anni fa. Capito, c'è un periodo che però entravo ogni tanto solo da lì, e da cazzo non ci trovo mai perché siamo sotto. Però glielo davano quando si sedeva in campagna, glielo mettevo di nuovo. Infatti c'era una gran play, tre elementi, tre radiali e con un paio di metri. Cazzo, però sparava forte, era micidiale, cazzo. Papà. Oi. E comunque ha fatto la storia, cazzo. La roba sua, dov'è la roba sua? Quale roba? Paracchini che ci aveva, tutta l'attrezzatura. Ah, ci hanno buttato la moneta, li avevano fatto via, hanno fatto fuori, capito? C'è anche un cazzo così. Abbiamo proprio tolto. E allora, quello che si incazzava, quindi stava di salute, perché faceva incazzare tutti i giorni, allora ha fatto trovare i casini, lo trovano i cugini a casa, a telefono. Abbiamo deciso di toglierlo da mezzo a questi randaggi del baracchino. Tu, come l'ascolti di segnale e di modulazione? Quasi, cioè 9.25, dai. Perché la lineetta sta abbassa, non va tutta su giù. Mi ascolto benissimo. Non so come mi ascolti tu a me, ma io qua ti ascolto benissimo. Ti ascolto bene anche io, non c'è problemi, tu puoi aspettare. Ma ti eccezionale, è bel lavoro, come va? È un po' spento, è un po' male. Qui con questo caldo, poi il cazzo le state sempre aumentando, 3 volte al mese. Aumentando? E allora volete il cazzo delle società? E aumentarci le ossa? C'è che ha aumentato 2 volte di seguito in poco tempo, mi sembra a agosto, a settembre. Ma non aumenti tutti i cazzi anche, secondo me. Ma come fanno con la benzina? Visto là come fanno con la benzina? Cazzo, c'hanno, molte volte il petrolio abbassa, loro aumentano sempre, perché loro adesso gli pensano a fare i soldi su queste cose di consumo, diciamo, con il benzina, il gas. Però c'è quasi le statistiche, la benzina le stanno vedendo sempre di meno, cioè ci sono sempre in meno le statistiche, e così per il gas, meglio normale, loro continuano a aumentarla, perché se la gente li usa più per scaldarsi di bombola. Lo useranno solo solamente per la cucina, e la colpa sta solo di questo cazzo di aziende. Poi lo stato che c'ha tante allucinanti sulla benzina, tutti i quanti carburanti, sul gas, accise, annatto, sono tutti ladri, tutti coglioni, questo cazzo, scusando la frase. Quello che è così, loro fanno i soldi da queste cose qua, dalla benzina, dal gas, però sta succedendo, e così vedono le statistiche dei consumi mese per mese, sta sempre meno, la benzina, il gas, ma è normale, non si può aumentare, la gente non ha soldi, e allora deve risparmiare su queste cose che potrebbe più o meno farne a meno, capito? Invece c'è neanche la prima gelato, ma non è una città. Io è così, la gente risparmia, a posto di andare in macchina, va a piedi o va in bici, stanno usando anche quelle biciclette che hanno la parte di piace, se tanti piano piano e soprattutto anche fatica, deve andare da un posto all'altro, lì sale e va. E così che la gente o va a piedi e usa i mezzi pubblici, magari sta bene che consumi a macchina, almeno con la benzina presa a un certo punto si staccano le spalle, perché ne abbiamo le spalle piene, sono un bel tirato su queste cose qua. E intanto continua a prendere per il culo loro e quelle e quei grandissimi qua. Non voglio dire altre parolacce, però già mi hai capito. Ma è così, purtroppo la politica è quella, la benzina, e qui la gente non usciva, faceva la passeggiata, ci andava a porto a porto, ci veniva il gelato, adesso non ne fanno più, capito, non ne fanno di molto di meno, e la usano solo esclusivamente per cose urgenti, non per c'era a posto come facevamo prima. Ma la benzina comunque c'è. C'è gente anche che mi ha sprecato tanto, e poi alla benzina. Guarda, molti anche, cioè, secondo me c'è il posto di lavoro, dice, ma che cazzo me lo fa fare, prendere la macchina. Prendono, vanno a piedi o vanno in tratto, e risparmiano, non consumano niente, non girano la chiave. E via, la usano la macchina solo quando serve, quando non c'hanno un'utilità, non quando non serve. È così, ma anche in città si organizza con tutti le varie tram, se riuscì a commissione, io faccio così, io non è per un consumare, sono un cazzo, ma a me piace lasciare anche a casa e prendere il tram, cioè fare qualche cosa urgente, altrimenti ci stiamo anche al centro, perché non me la frega niente, io c'entro sempre dalle 8 in poi, le 8 di sera, altrimenti io non c'entro mai, e poi e me non c'ero, ti coglioni trovare il parcheggio, dove il parcheggio devi pagare, capito? Quindi più entra, sarò più o meno l'orario, dove cazzo ti ferma il tram, e per tutto, in pochissimo tempo. Tra l'altro giorno ho fatto un'ora, e poi il biglietto dove dura più tempo, là. Ho fatto tutto, sono andato lì, l'ho fermato a 100 metri, ho fatto questo cazzo dei documenti, tra la mia ferrata, dopo noi andiamo a casa. Allora, cosa bisogna fare la macchina? La macchina si deve fare la plaza nuova della macchina. Ti capita un'urgenza per la macchina, ma se devi andare a farti delle cose, eccetera, eccetera, allora bisogna fare. La gente farebbe bene anche uscire a piedi. Ciò che si lamentano molti che sono pesi, eccetera eccetera, ma davvero bene un pochettino ci da piedi che si mangia bene, come di stare con questo cazzo di macchina a fare in giro e a buttare benzina. Allora aspettate un po', abbasso un po', allora ok, mi ascolti così? Sì, e tiro 5 fa bastano anche 10 bastano, ma adesso faccio una prova toccata, e quindi adesso io uso sempre poca pazienza, ma non mi interessa, almeno qua, capite? Purtroppo è così, pure io guardo il mio, molte volte quando devo scendere a piazza Navona così, certo, tipo la mattina, il sabato che non sto lavorando così, mi sono messo in schiena e scendo in bicicletta, l'ho sempre fatto da sempre, capito? È sempre la mia passione, non sono di quelli che sono dato che prendo la macchina devo entrare per forza dentro l'ufficio postale a fare il tracciamento in macchina. Io lascio anche il capo a due chiavi che me la faccia aprire, non me ne metto questi problemi. Invece la maggior parte della gente tanto è su rubare della macchina, ogni cazzatina, la macchina è ancora a fare 100 metri. Tappa. Guarda, farebbe bene a tutti anche se è un po' a piedi. Consigli o usare qualche bicicletta così per fare le commissioni in città anche. Farebbe molto bene. La salute sarebbe meglio, cioè, perché anche a mettere in moto il sangue, cioè, essere una persona anche che si muove molto, fa bene, fa. Soprattutto una persona che non fuma fa ancora meglio, fa. Sì, ma io non ne ho ti prendo una macchina, io la uso quando usarla e basta, non di quelli che... Però così, purtroppo siamo governati da dei ladri, la cosa che mi rattrista è che sarà sempre peggio. Ma è cosa che ha fatto 30 anni fa? È che io ho un cazzo uguale, perché io devo darmi il giorno dentro quel cazzo di macchina. È andato da una parte all'altra a portare il comodo. Se no, no, già non c'ero neanche... Non me ne ha fregato niente. Io quando ero in ferie, cazzo, tutta la settimana mi sono salito a tassare. Una volta alla settimana solo ci salivo a tassare. Perché dovevo salirci. Se no... Oh! Come le faccio le vacanze? Sono in ferie, ad agosto. Eh sì, ma dove è? Non è in città. Toccava salire in città per fare una cosa. Sì, ma ho detto, ma tu allora non eri in città. No, ho detto che io me ne stavo qua. Salve. Arrivo manco per la città, perché non le palle piene salire in città. Salve. Uia. Ma che è insomma qua sta cercando di sovramodulare? Sta qualche guapo. Ah no, aspetta, forse... No, aspetta un attimino, aspetta, ho sentito adesso, che non c'è? Ho negativo, adesso sei riuscito a uscire fuori, che eri molto basso, capito? Non, forse gli altri due amici non riescono a tirarti fuori, bombolo, lo senti Pinocetto? Ma qua non arriva con l'antenna grande, ti puoi immaginare se... con la piccola lo sento. No, qua stai arrivando, aspetta un attimino Pinuccia, perché loro non ti sentono, quindi ti parlano sopra. Fabri, tu lo stai copiando? No, io non ascolto per niente, dove sta parlando? La Buduso, avanti Pinuccia. Capa, sono l'unico che ti sente, stai arrivando con un Santiago di 4 e una radio di 2-3, però è abbastanza pulita, capito? Qua riesco a tirarti fuori bene. Sei in compagnia di Antonio Bombolo e di Fabrizio Mascherato, però non riescono a tirarti fuori. Ma di Roger, dai, ti risaluto io. Pinuccetto stava dicendo che sta provando una scatoletta valvolare, io un attimino stava provando a tirargli il collo per vedere come stava uscendo, capito? Comunque vi saluta, adesso lo rilancio un attimino, avanti Pinuccetto. Cappa di Roger, no, la radio è limpida e cristallina, anzi, adesso evidentemente sta scaldando, sta uscendo anche molto meglio, piano piano, eh? Sì, si sta nevicando. Aspetta, cos'è che stai dicendo, Fabri? Cosa gli devo chiedere? Se sta nevicando. Mi ha chiesto se sta nevicando, Hitler. Non ti ha neanche risposto. Va bene, Pinuccia, dai, ci ascoltiamo alle prossime. Purtroppo io sono l'unico che ti ascolta e sono un attimino in QRX. Ci sentiamo alle prossime, ti faccio uno squillo uno di questi giorni che ti devo chiedere quella cosa che ti avevo già preannunciato. Capo di Roger, è tutto ricambiato al 100, dai. Ci sentiamo alle prossime. Vi saluta e vi auguro un buon QSO. Avanti, Fabrizio. Ok, vabbè, ringrazio per il ricambio. Vabbè, avanti, Antonio. Affa, purtroppo noi non arriva in questa zona, alla Pedose. Se non arriva normalmente con l'antenna grande, perché mi sa che siamo un po' chiusi per quella zona, non lo so se è pulita. da qua in poi. Sono a Monte Rosello, non arriva, purtroppo. Non lo so se poi da qua in poi arriva, perché arriva anche a Ottava, arriva. E cos'è? Muscle Breakers. Gianco, buonasera. Buonasera, Massimiliano. Salto e Pesentino, sono in compagnia di Mascherato, avanti. Scappa, ciao Mascherato, anche a te, buonasera, Massimiliano Bulldozer qua. Ciao Massimiliano Bulldozer, ben ascoltato anche da parte mia, dove ti trovi? San Giovanni, siamo qua. Ho capito, avanti a tu. Va. Ah, sei a casa, Massimiliano. Io vi stavo ascoltando, dai. Comunque la sentivo a capiruccetto. Sta lì in poi l'ascolto, invece tra la zona più alta, tipo Monte Rosello, c'è Lumonti, e cosa non arriva. Non lo so se poi da qua in poi arriva, signor Cedro. No, non lo posso sapere perché non c'è l'antenna grande. L'importante è che ci arriviamo noi, ci arrivo io lì alla veloce, non l'ho fatta. A voglia. E allora va bene. Ma noi ascoltiamo solo quelli che arrivano a 9, da 9 in poi, gli altri non li ascoltiamo. E allora andiamo, va bene. E penso che già D'Antonio già deve arrivare, se andiamo a 9, credo, Non vedi più se arrivate. E se no già abbiamo il rimedio. Riprendi Fabrizio Mascherato, così è. Cazzaroccio, così è. Qua non facendo altro, Antonio, stavo parlando con questo, perché con l'altro è un casino. C'è la televisione accesa e se non me la porto dietro, capito, se non è accesa l'altro. Oh, già basta, è a voglia. È perfetto, basta, è a banca. E tra me Mascherato quando sarei, io sto arrivando qua a trovarsi, normalissimo. Tra me Mascherato quando è? Siamo tutti e due alla veloce. Oh, Anto, aspetta, guarda in questo baracchino, non so se è giusto, Prova, Anto. Ora, avanti, va bene. Ora. Allora, Antonio 6, lui è 5, come segnale. Aspetta che lo controllo con l'altra radio, forse è più tranquillo. Ah, non c'è bisogno, era solo un... Allora, andiamo a scontro. Ma quanto ne hai, Fabri? Io, un watt. Prova. Sei sicuro? Tanto. Avanti. Prova, 2-3. 1-3. 8-6. Prova tu, Fabri. Grazie, 1-3, 1-3. 7 a bicchieri 8, dai. Punto di differenza. E a chi è che deve entrare? Avanti. La facciamo io. Sì, però se è sotto qualcuno voleva entrare. Mi porto dietro un po' di rumore. È già predicato, ma che ha predicato la radio. Tanto con l'altro, aspetta. Gamba, sto per avere un'idea, dai. E poi Antonio c'è sempre linea attaccata per quello che arriva a fuoco. Che cazzo linea attaccato? Sto usando Alfa Jet, quello normale. Cambiato la riprendo con questo, con quello lì mi porto. Cioè devo essere da solo qua, dai. Perché questa Antonio Bogo esce sempre con un kilowatt. Abbiamo nessun accorto, sì, infatti ha cambiato anche il cavo, mi sa, l'ha messo più grosso perché l'altro l'ha sciolto. Sì. Mi sto dicendo che ho 4 watt. Le bugie sono qui con l'altro, rompi il baracchino. No, ragazzi. No, sono normale, proprio... È quello Alfa Jet, capito, quello che vende Fusaro. Però il mio è quello che mi piaceva, cioè... Quello che forse non ce l'ha nessuno, è quello che c'ha la mascherina grigia. Ah, sì, quello è difettoso. Difettoso. Dipende Fusaro perché è difettoso, capito? Sì, ma che cosa intende? Ma anche Fusaro con la malattia lo intende? Sì. aspetta. Sono quelli cinesi, quelli che non vedono niente. Sono buoni, eh? In Cina le faccio così della Midland. Questo ho fatto stare uguale. Ma questo è quello che ti taroccate. Taroccate. Funziona benissimo. Sta facendo bene, tutto qua sta arrivando bene. Ascolta Fabio, io come sta arrivando lì da te? No, la radio 5 è perfetta, forte, squillante, perfetta. Guarda, io devi tenere conto che io sto utilizzando un dipolo, e le puntate verso il mare. Sì, positivo. Va bene, ok. Io sto usando la 48 lungo watt, riportante, bianca, senza liscio, diciamo, eh. Ma io stesso sto usando un baracchino monogatto, niente di più. Fatemi un attimo che vengo subito e devo fare una cosina veloce. Capra, non c'è problema. Beh, allora, tutto voglia. Ma ci voglia? E io? Sto a posto, come va? Sì, Antonio, tutto a posto, dai. Non mi stavo ascoltando da poco fa, mi così, stavo facendo delle cosettine qua. Mi stavo ascoltando, e vabbè, penso se faccio in tempo, se non chiudono, è per salutarli. Ciao. Però fatti studiare, noi siamo d'accordo. Quando volete. Non è che sono salito tutti i giorni a Sassi, ma comunque. Ci vado spesso tu. Sì, è bruciato era, perché quando, da quando sono queste? O sono modificate? No, io in genere li uso da 3, da 3 ampere, però questo qua era da 1,5, non ne avevo altri, adesso me l'ho preso e li ho messi da 3 nuovo. Già me lo posso immaginare. Beh, magari quelli modificati, ma di solito l'originale è 2,5. Da 3 diciamo che potrebbe essere buono, perché magari con la parecchia un pochettino modificato va un pochettino meglio. Sì, infatti io quello normale lo metto da 2,5 e da quelli un po' più spinti lo metto a 3. Ciappa, così si dovrebbe fare. Diciamo che si entra nel normale, se lo pone troppo grosso si brucia. Infatti oggi è stato più grosso, me l'aveva bruciato. Stavo parlando tranquillo, che ha diritto di tutto il lato qua. Ma non è che si bruciano, non fa niente. Si brucia l'apparecchio, si praticano guardando l'apparecchio, e malauguratamente entra di fuori. Che non ha la giusta tensione, allora lì si potrebbe succedere danno. Sembra un po' troppo grosso, se no se nel tutto si brucia possibile l'apparecchio si salva, però qualche volta non è così nemmeno. Beh, io c'ho le cose, l'alimentatore, tu che se sbagli pure che vai a accendere il baracchino, va in protezione lui, capito? Niente accende. E scappa, sì, se lo so, va in protezione qua. No, io sto quello normale qua. Ma proprio da quello distante, io ho sempre usato questo, mi va benissimo. Senti, poi la grappa qua, non ho mai avuto problemi. Si viene un bel incazzante, si dirà niente. Io vado su di lì e funziona benissimo. Senza strumenti, senza niente, funziona benissimo. Io ne ho uno da 10 ampere. Da 10 ampere, senza strumenti, senza niente, va benissimo. E poi c'è quell'altro da 25 che va bene lo stesso, con gli strumenti. E vanno bene tutti e due, tanto. Sono alimentatori che fanno alla grande, ma sai cos'è, un bel gente che sono sempre più piccoli, ma quella è robetta, quella è colà, e da canto da c'è comparato non ho mai dato problemi, da voi, a pensare come vogliono, va bene, ma secondo me spende sempre come ristratti la roba. È sempre perfetto. Ne ho anche uno da 10 ampere, ma a me mi bastano stesse, a voglia. La voglia che bastano, quindi a fare i buchi. Ma tanto io non è che sto giù a attaccare chissà che cosa. No, da quando sono dopo qualche annetto ce lo siamo comprati, che dopo che il sorgio sta per rimodulare cosa, c'è un dolce da parecchio, però funziona sempre bene. Io ce l'ho 5 anni e non ho dato problemi altro. Ma no, questo qua è più vecchio di 5 anni, ci avrà anche, forse ne avrà anche 7. Brava, ma tuo padre non ci sta piantando niente, vero? Per i problemi, un po' perché è scoglionato, non si sta entrando. E via, va. Salutamolo. Comunque fa bene la traccia, perché questi cibi sono tutti delinquenti. Avevo ragione. La gentaglia. Ma, Beh, io entro raramente, la verità. Non è che sono tutti giorni attaccato. Ripeto, ho partecipato a tutte le radio, ho tenuto giusto le due radio così volanti per fare qualche chiacchiera, qualche amico, salutare e basta. Vabbè, dai. Guarda, l'importante è farlo anche che sia una volta ogni tanto, l'importante è farlo, passare uno qualche oretta tranquillo, non trottate, tranquillo. L'importante è farlo. Poi se si fa due volte, se si fa quattro volte, se si fa una volta solo, ogni tanto non è un problema. Però l'importante è essere contenti ed essere tranquilli. E proprio ha ragione, è così proprio. Infatti mi stavo facendo un po' di ascolto di questa mattina, vi ho sentito se volete trasportare. È tutto qua, riprendi Fabrizio. Ecco, vabbè. Infatti questi giorni questo però poco movimento si sente, anche se c'è un po' di preparazione, ha fatto un po' di collegamenti, ma niente di particolare. Vabbè, sì, ogni tanto capisci B si avanzava. Sì, perché secondo me il baracchino è a periodi. Ma ogni tanto dobbiamo. Bisogna allontanarsi, dobbiamo anche andare a piagare un'altra cosa. Soprattutto l'estate, soprattutto l'estate è sempre a manetta. Tanto? Già. Ma se devi fissare, fissa senza pagare. Come si vede una bella, importante è andare. Anche a pagare, c'è stato qualche travestito? Bene, la bella farebbe da culo. È come la barzelletta, quando la mettiamo dietro, che cazzo ci ha trapassato? Non ha da fare tappi anche di culo, vai. Tu magari tu mi ha sorpresa, se ti sei. Tanto. Se ce n'è uno lì a coso, di fronte a Carrefour, come ti diciamo. Cazzo fa due ditti, manni, cazzo, tanto una fisarmonica. Cazzo male, due mesi blocchetto, tanto sotto. Antonio, tu lavori sia al Cavalonna e sia al Mangaglio. E lui va sempre con quella, Vero? Tu lì si andava a infilare le unità in culo, Che schifo. Io dovevi farlo, c'è un po'. Adesso che schifo, cazzo, ci vai tu che schifo. Che cosa fa via in Chivisotto, mamma mia. Aspetta un attimo che attacco due cose, vado con l'altra radio. Non la pigliamo con tutto. capito, tanto prima ci va con quella lì, adesso cazzo vuoi fare il cimonio. Fai che sono le bombe, Antonio, vissi. Non c'è neanche popolazione, può c'è neanche da altre parti, strano. Fatto Dio, e poi c'è una bella giornata, la prossima c'è la preparazione, una grande fame più vicina, c'era tutti i brasiliani, ma non c'è la 9:20, 9:10. Per il corpo è vero. Come farà a dare un uomo? Cosa? Stasera ce n'era un po' di 20 metri di preparazione. E anche per farlo lì, noi 40 metri, 18 mega, poi un po' la si muove, ma di batteria anche lì. Si può guardare FSB, ma c'è un cazzo. Ma gamba, uscendo qua questa radio, ma sono già. Sì, Antonio, beh, questo è un pochino più forte di modulazione anche. Vabbè, sarà più forte anche il segnale, forse. Boh, aspetta, io guardo un secondo, aspetta. Dico io quando a mettere. Vai. La panna a mangiare si capisce anche, così, dai. Qua sì, Santiago 2, Radio 2. E poco più di 9 qua, dai. Appena più di 9. Beh, c'è qualche fatto in più, c'è. Logicamente. Santiago 2, Radio 2. A te 2. A tu, attacca perché Radio 2 qua. 2 e Radio 2. Lineare, il dullulinare. Però vedi da dove quella radio si segna come l'altra. Sono un giorno senza attaccarlo, adesso qualche giorno lo provo. Attacca il lineare, va, attacca 747. No, non posso, no, se non mi scusi il lineare a capo la radio puro. Perché sono la televisione. Tanto guarda bene lo Smith, da questo passaggio quanto è? 9,20 con questo. Così, con questo passaggio? Eia, con questo Smith è così. E così sono a fondo scala allora. Prego. Ma sta in varia. Appa, c'è un becco avanti, buonasera. Buonasera. Ciao Bulldog, ben ascoltato. E anche Fabrizio, Franco da Sosso. Bulldog, mi si prende 4.000 allo Smith. Io come le vacanze, cioè, sto andando un giorno a te adesso. Poverino. Va bene, dai. Buonasera comunque, dai. Franco da Sosso, l'ho già detto. Avanti Fabrizio. Qui, qua c'è Franco da Sosso. Io ascolto mezzo a cuore, non ascolto niente, capito? Dunque salutatelo. Salutone Franco da Sorso. Mi senti a Colio, a Antonio Bombolo e a Fabrizio Mascherato? No, Antonio Bombolo niente, Fabrizio sì, lo sento. Lo so perché lui non... infatti sono entrato proprio per Fabrizio perché... mi sembra se lo stesso Fabrizio Mascherato di tanti anni fa, perché lo conosco. Fabrizio, sentito. Ah, non so che sta parlando, però non capisco, capisco che salutate, no? Avanti, Andrù. No, no, io lo sento bene, non ho problemi. Lo sento Santiago 2, ma lo sento. Comunque, salutone, ci senti Antonio Popolo, Allora Antonio, a te non ti ascolta per niente, a Fabrizio l'ascolta, io se tirarlo fuori, infatti mi ha detto che è entrato proprio per Fabrizio, per vedere se era il Fabrizio di tanti anni fa. E sono io, lui chi è? Franco da Sorso. Ah, se lo ricordo, dimmi che sono sempre offeso, ma sono sempre offeso, e dimmi se ancora vivo. Io sono sempre vivo io, infatti quello che ho sentito ho detto ma questo è lo stesso mascherato di una volta, infatti già ci conosciamo anche in verticale. Avanti, Bulldog. Ascolta, c'è una piccola alternata sotto. Aspetta un attimino allora a vedere. Vedi a vedere, è sparita? C'è ancora, prova a mettere la mano sul collo. Sul microfono dove attacca l'apparato, prova a vedere. Sì, cacco. No. E allora vabbè, allora è una modifica che gli ho fatto perché gli ho tolto la batteria da 9 volts e gli ho messo un alimentatorino piccolino da 9 volts. Allora è quello che magari non gli basta la massa, capito? Perché c'hai un'alternata sotto. Comunque, Ofra, io sto andando con 2 watt, con 2 watt di baracchino. Ehi, capo, vabbè, siamo vicini, siamo comunque, dai. Tu sei a San Giovanni, mi sembra. Sì, io a Sorso ce l'ho proprio qua, diciamo, alla mia sinistra, ma lo vedo, capito? Ehi, un secondo che gli tolgo quell'affare lì, gli tolgo e gli rimetto la batteria. Va benissimo, ok, siamo qua. Ok, riprendi mascherato. Capo, io non te l'ho più sentito, anni, cazzo, l'ho riesumato, ti hanno. Avanti, Andrew. Scappa. Boh, che strano, tu non riesci a sentirlo io invece lo sento. Non ho problemi. Se io si sente così, io c'ho leggermente QRM a Santiago 3, capito? E non sentivo mezzo a cuore, se lo sentivo stavo parlando, però non capito. cattivo. Capito tu? Ma questo ci conosciamo cattivo da 20 anni, 25 anni fa. Già siamo un po' vedendo di una vita. Ma dopo questo entriamo ogni giorno, poi abbiamo tutti a festivo. Mattina e sera facciamo collegamenti insieme, noi abbiamo fatto delle cose. Anzi, prima una volta magari si è ricordato e le macchine gli ho fatto un milione, magari se lo ricorda ancora. Fatto quello della Spagna, sì, ti mando la carta a questo, la stanno aspettando. A che non hai fatto il bidone? Ma sa, lui era suo amico, perché non intanto mi ricordo come si chiama, però c'è anche un'altra persona, mi sa che era un collega suo di lavoro, a quello invece me l'ho fatto in inglese. Sì, manda la carta in Inghilterra, che mi manca, la sta ancora aspettando. Perché tu sai parlare in inglese? Si chiama radio, a livello di radio va radio, capito? Non è che ci sia... certo, non è benissimo, però chiama radio. Intanto il taglio di bidone ce l'hai a mazza. Giulia. Devo stare attento, se ne accorge che la voce tua. Sì, allora, bisogna anche altre cose per camuffarla, non è che tutti hanno la stessa radio, stesso microfono, del genere. In macchina, capito, la carta di sale faceva il bidone, ma manco se ne accorgeva. Guarda lì. Avanti. Avanti, ma se vediamo. Beh, è positivo, ma no, come dicendo Fabri, forse potevo usare magari se c'è una verticale per ascoltare a Franco Vassorso. No, negativo, non è la sua disposizione, c'è questo di Polino che poi tra l'altro non è per questa frequenza qua, e sono accordato, niente, solo per farmi sentire qua in zona, poi il resto non me ne frega niente, capito? Poi c'ho anche la stazione del mio cugino festivo, lì vabbè, lì c'è tutto allora, ma qua non mi interessa, c'è solo questa zona per ascoltare, c'è una di ascolto e basta, e poi c'è una X50 per ascoltare sulle 2 e sulle 1 e sui 1002. E poi no, credo che potete comutare qualche antenna lì. No, negativo, non sempre c'è questo di Pulino, 20, 40, 80, solo per fare la giornata di ascolto e basta. E se fate l'accordato, sulla 27 un po' va bene. Se non va bene, devo c'è 140? No, ragazzi, io sto utilizzando adesso un apparecchio omologato, capito? No, per ascoltare, dico. Ah, per ascoltare diversi, però... ascolto sia col ricevitore oppure con l'apparato, dipende, capito? Sì, ho capito. Tu ci sei? Sì, ci sono. No, a Franco stavo chiedendo se si è ripreso. Vedi com'è adesso? Mamoletta, va bene. E capo, gli ho tolto quell'alimentatorino, gli ho tolto e gli ho messo di nuovo la batteria. E probabilmente quello lì mi fa internato. Sì, infatti era proprio quello, perché adesso sei tranquillamente perfetto. E capo, va bene così allora, capo. Comunque lì a Fabrizio che confermo tutte quelle bidonate. Sente, ti sente. Nella QRM ha detto che ti sente. Ah, già mi sento. Grazie. Quella bidonata all'inizio, dici che era all'inizio però non la ricetrasmettesse, per quello ho fatto il bidone. Capito Fabio? Allora, sento che sta parlando, ma non lo capisco, è mezzo a leggere un QRM, perciò non riesco a capirlo. Cosa ha detto? Ha detto che quella era una delle prime bidonate che gli ho fatto. Ma tanti anni fa, però fa già di 10, capite? Però era una cosa bella. Ma che disse era la stampa che non entrava? Perché non l'ho più sentito? Sì, ero dal 2000 che non entravo. Ho mollato il 2000, poi ho ripreso 2-3 mesi fa, ho ripreso. Non avevo più niente, mi sono rifatto un po' la qualcosa e sono rientrato. Ma stai dicendo che era dal 2000 che avevo mollato, adesso un paio di mesi che ci abbia fatto qualche apparecchino così, giusto per farci una chiacchierata. Meglio Antonio, ciao Massimiliano, salutami a Franco, ci sentiamo da notte, avanti Massimiliano. Dappa, ciao, buonanotte, ciao Fabrizio, ciao, alle prossime, buon proseguo, avanti Antonio. Scappa, saluto le mascherate, allora, ci sentiamo, alle prossime, avanti io. Anche Franco per mascherato che sta chiudendo. Ehi capo, dai, saluto e buona, buon corretti, buon tutto, ce la riascoltiamo per le prossimine, e fate sentire capo, io non so se mi sente, ma mi sa che non mi tira fuori, e digli che si mette a posto qualche antenna come si deve. Detto che lì non è antenna, cioè sta usando giusto un dipolo per altre frequenze, dai, diciamo, se l'ha accordato giusto per fare due chiacchiere qua. Io ho sentito poco fa che sto parlando di po', ma è meglio mettersi anche un'antenna, almeno parlare a questa zona qua. Positivo, molto che non lo senti a quello un po'. No, negativo, negativo, non lo sento per niente a lui. Non di polo, che per la 27, ma comunque accordandolo qualche passaggio 27 lo fai, fate anche qua come segnale era 5 lui, capito? Ecco. Ma io lo ascoltavo benissimo, caspita, sì, come segnale 5-6, modulati, e la radio buona, 4, un 3-4, dai. Perfettamente 5 la radio la sua, Santiago 5 arrivava, Santiago 5 a picchi di 6. Ecco, strano che lui non mi ha ascoltato, vabbè, magari insomma c'è di buono che sono nascosta. Sì, sicuramente sarà così. Tu la radio stai utilizzando adesso? Ma io adesso sto usando un Connex, il Connex è 3600. Va bene, ancora voglio, va bene. Ecco, è un vecchio apparato, ma è sempre in gamba. Non nega mai niente questo qua, non nega. Proviamo il 45.